terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Tornata a casa, Emma provò dapprima un certo gusto a dare ordini alla servitù. Presto però prese a noia la campagna e cominciò a rimpiangere il convento. Quando Charles fece la sua prima apparizione ai Bertaux, lei si sentiva ormai totalmente delusa. Pensava che non ci fosse più nulla che valesse la pena imparare, non ci fosse più nulla per cui valesse la pena commuoversi. Ma l'emozione della novità e forse l'eccitazione prodotta dalla presenza di quell'uomo erano bastate a farle credere di essere finalmente posseduta da quella meravigliosa passione che sino ad allora si era librata come un grande uccello dalle piume rosa nel fulgore dei cieli poetici. Così adesso non poteva convincersi che la calma in cui viveva fosse proprio la felicità tanto sognata. Eppure ogni tanto pensava che quelli avrebbero dovuto essere i giorni più belli della sua vita, la luna di miele, non si dice così. Era convinta che solo in certi luoghi della terra potesse attecchire la felicità, come una pianta particolare a un dato suolo e condannata a stentare o morire in qualsiasi altro. Perché mai le era vietato affacciarsi al balcone d'uno chalet svizzero o rinserrare la sua tristezza in un cottage scozzese al fianco d'un marito vestito d'un bell'abito di velluto nero, con gli stivali flosci, il cappello a punta e i polsini ricamati? Forse avrebbe provato un certo sollievo a sfogarsi con qualcuno. Ma come esprimere un malessere ineffabile, pronto a mutare aspetto come le nuvole, pronto a invertir direzione come il vento? Le mancavano le parole, l'occasione, il coraggio. A ogni modo, se solo Charles avesse voluto, se appena avesse intuito qualcosa, se almeno una volta fosse venuto con gli occhi incontro al suo pensiero, lei credeva proprio che un'improvvisa abbondanza sarebbe caduta dal suo cuore, al pari dei frutti da un albero al primo tocco di una mano. Ma via via che aumentava l'intimità della loro esistenza, lei sentiva acuirsi il distacco, si sentiva sempre più lontana da lui. La conversazione di Charles era piatta come un marciapiede. Vi sfilavano le idee più comuni nella loro veste più ordinaria, senza suscitar la minima commozione, d'allegria o di sogno. Lo diceva lui stesso. Non aveva mai provato la curiosità, durante il suo soggiorno a Rouen, di andare a sentire a teatro gli attori di Parigi. Non sapeva nuotare, né tirar di scherma, né usar la pistola. Un giorno non seppe neppure spiegare alla moglie un termine d'equitazione che lei aveva trovato in un romanzo. E un vero uomo, invece, non avrebbe dovuto conoscer tutto, eccellere in ogni attività, essere in grado, insomma, di iniziare la propria donna alle violenze della passione, alle raffinatezze della vita, agli innumerevoli misteri. Non insegnava nulla, Charles. Non sapeva nulla, Charles. Non immaginava nulla, Charles. Credeva che lei fosse felice, ma lei gliene voleva per tutta quella tranquillità imperturbabile, per tutta quella pacifica pesantezza, per tutta quella stessa sazietà di cui era l'origine. Secondo teorie della cui bontà era convinta, Emma cercava di arrivare al vero amore. In giardino, al chiaro di luna, recitava al marito tutti i versi appassionati che sapeva a memoria e gli cantava, sospirando, qualche aria malinconica. Ma poi si ritrovava malauguratamente più calma di prima e quanto a Charles non le appariva né più innamorato né comunque più turbato. Quando ebbe battuto così per un poco l'acciarino sul proprio cuore senza farne sprizzare una sola scintilla, incapace del resto di comprendere quanto non provava, come di credere a quanto non si manifestava in forme convenzionali, si persuase facilmente che nella passione di Charles per lei non vi era nulla di eccessivo. Le espansioni del marito erano diventate regolari. La baciava a ore fisse. Un'abitudine come un'altra, quasi un dolce previsto per tempo, dopo la monotonia del pranzo. Thank you. Un guardacaccia, curato da una flussione di petto, aveva donato alla moglie del medico una piccola levriera italiana e lei la portava a spasso, poiché ogni tanto usciva per starsene un poco da sola, per non aver più sotto gli occhi l'eterno giardino e la polverosa strada maestra. Arrivava sino al faggeto di Banville, al padiglione abbandonato che fa angolo con le mura dalla parte dei campi. Nel fossato tra l'erba erano lunghe canne dalle foglie taglienti. Lei cominciava con il guardarsi intorno per vedere se fosse cambiato qualcosa dall'ultima volta che era stata là. Ritrovava al loro posto le digitali, le viole gialle, i ciuffi d'ortica intorno ai grossi sassi e le macchie di lichene lungo le tre finestre, le cui imposte sempre chiuse si sfacevano marce sui rugginosi sostegni di ferro. I suoi pensieri, senza una meta da prima, erravano a caso, come la levriera che girava in tondo nei campi, guaiva dietro le farfalle gialle, dava la caccia ai topi ragni o mordicchiava i papaveri ai margini d'una distesa di grano. Poi, a poco, lei si fissava su un'idea più precisa. Allora si sedeva per terra e, tormentando l'erbe intorno con la punta del suo ombrellino, si ripeteva: «Dio mio! Ma perché mai mi sono sposata?» Si chiedeva se non avrebbe potuto, per una diversa combinazione del caso, incontrare un altro uomo e cercava di immaginare quali avrebbero potuto essere gli avvenimenti non avvenuti, che vita avrebbe fatto, che marito avrebbe avuto. Nessuno di quelli che si inventava somigliava minimamente a Charles. Sì, avrebbe potuto trattarsi di un uomo bello, spiritoso, distinto, affascinante, come erano senza dubbio quelli che avevano sposato le sue compagne di convento. Cosa facevano adesso loro? In città, tra il frastuono delle vie, il brusio dei teatri e lo splendore dei balli, conducevano certo esistenze fatte per allargare il cuore e dar libero sfogo ai sensi. Ma per lei, ecco, l'esistenza era fredda come un solaio esposto a settentrione. Il silenzioso ragno della noia tesseva e ritesseva la tela nell'ombra, in ogni cantuccio del suo animo. Si perdeva a ricordare i giorni delle premiazioni, quando saliva sulla pedana della cattedra per ricevere le sue coroncine. Con le sue trecce e il suo vestito bianco, i suoi scarpini scollati, aveva un aspetto talmente gentile lei, e quei signori, quando tornava al suo posto, si chinavano nella sua direzione per farle i complimenti. Il cortile era pieno di carrozze. Tutti la salutavano dagli sportelli. La salutava persino il maestro di musica che passava con il violino sotto il braccio. Ma com'era lontano tutto questo? Com'era lontano? Così lei chiamava Jalie, se la prendeva tra i ginocchi, le passava e ripassava le dita sulla testolina appuntita e le diceva: «Su, da brava, da un bacetto alla padrona, tu che non hai dispiaceri». Sul viale la luce verde riflessa dalle foglie illuminava il muschio che scricchiolava gentilmente a ogni passo. Il sole tramontava, il cielo fiammeggiava tra i rami e i tronchi tutti uguali degli alberi piantati in linea retta parevano un colonnato bruno stagliantesi su un fondo di porpora. Allora la prendeva la paura, chiamava Jalie, tornava in fretta a Tosto per la strada maestra e a casa si lasciava cadere su una poltrona e per tutta la serata non spiccicava più una parola. Ma verso la fine di settembre qualcosa di straordinario accadde nella sua vita. Venne invitata alla Vaubyessard dal marchese d'Andervilliers. Quell'estate, proprio quando faceva più caldo, il marchese aveva avuto un ascesso in bocca e Charles l'aveva guarito come per miracolo con un colpo giusto di bisturi. L'amministratore, inviato a Tostes a saldare il conto dell'operazione, riferì la sera stessa di aver visto nel giardino del medico delle ciliegie meravigliose. Si dava il caso che invece i ciliegi venissero su male alla Vaubyessard. Il signor marchese domandò un poco di getti a Bovary. Poi si credette obbligato ad andare a ringraziare di persona. Così vide Emma. Le trovò una figura graziosa e modi tutt'altro che da paesana. Quindi, al castello, non si credette di oltrepassare i limiti della condiscendenza, né tantomeno di commettere una goffaggine a invitare la giovane coppia. Un mercoledì alle tre, Charles Bovary e signora, su loro boc, mossero verso la Vaubyessard con un gran baule attaccato dietro la carrozza e una cappelliera posata sul parafango. E lui, per di più, doveva tenere uno scatolone tra le gambe. Arrivarono sul far della notte, nel parco cominciavano ad accendere i lampioni per illuminare la strada alle vetture. Il castello, di costruzione moderna, all'italiana, con due ali avanzate e tre scalinate, sorgeva all'estremità di un immenso prato. Il boc di Charles si fermò davanti alla scalinata di mezzo. Apparvero subito i domestici. Poi venne avanti il marchese e, offerto il braccio alla signora, la introdusse nell'atrio. Era pavimentato di lastre di marmo, aveva un soffitto altissimo e il rumore dei passi e delle voci vi risuonava come in una chiesa. Proprio davanti all'ingresso una scala saliva dritta. A sinistra una galleria che dava sul giardino conduceva alla sala del biliardo e già dalla soglia vi si sentivan carambolare le bilie d'avorio. Attraversando questo locale, diretta al salone, Emma vide tutte intorno al tavolo verde uomini con la faccia concentrata, il mento sostenuto da alte cravatte, tutti decorati, sorridenti, mentre spingevano silenziosamente le stecche. Il marchese aprì la porta del salone. Una signora si alzò, era proprio la marchesa. Venne incontro a Emma, la fece sedere presso di sé su un divano e cominciò a parlare amichevolmente, quasi la conoscesse da un'infinità di tempo. Era una donna sulla quarantina, con delle gran belle spalle, il naso aquilino, la voce strascicata. Quella sera portava sui capelli castani un semplice scialle di pizzo che le ricadeva a triangolo sulla schiena. Una ragazza bionda le stava accanto in una sedia dall'alta spalliera. Un gruppo di signori, tutti con il loro fiore all'occhiello, discorrevano con le dame intorno al caminetto. Alle 7 venne servita la cena. Gli uomini erano in maggior numero, presero posto alla prima tavola nell'atrio, le donne alla seconda, in sala da pranzo con il marchese e la marchesa. Entrando, Emma si sentì avviluppare da un'aria calda, miscuglio di profumi di fiori e di stoffe, di fragranza di cibi e di odor di tartufi. Le candele dei doppieri allungavano la fiamma nelle campane d'argento. I cristalli sfaccettati, velati d'opaco vapore, si rimandavano pallidi raggi. Le lunghe zampe rosse delle aragoste sporgevano dai vassoi. Strati di grossi frutti erano disposti in cestini traforati e foderati di muschio leggero. In calze di seta e calzoni corti, cravatta bianca e gala di pizzo, solenne come un giudice, il maggiordomo insinuava tra le spalle degli invitati i vassoi con le vivande già scalcate, facendo saltare nel piatto con un sol colpo di cucchiaio il pezzo scelto. Sulla grande stufa di porcellana cerchiata di rame, una statua di donna avvolta in un drappo sino al mento contemplava immobile la sala piena di gente. La signora Bovary notò che molte dame non avevano deposto i guanti nella loro coppa. Intanto, a capotavola, unico uomo tra tutte quelle donne, chino sul suo piatto pieno, con il tovagliolo annodato al collo come un bambino, un vecchio mangiava lasciandosi cader di bocca grosse gocce di salsa. Aveva gli occhi sbiaditi e portava il codino legato con un nastro nero. Era il suocero del marchese, il vecchio duca di La Verdière, l'antico favorito del conte d'Artois, al tempo delle grandi cacce a Vaudreuil nelle terre del marchese di Conflans. Si diceva che fosse stato addirittura amante della regina Maria Antonietta, dopo il signor di Coigny e prima del signor di Lauzune. Aveva condotto una vita ardente di stravizi, gremita di duelli, scommesse, rapimenti di donne. Aveva divorato il patrimonio e ridotto alla disperazione tutta la famiglia. Dietro la sua sedia un domestico gli diceva forte all'orecchio i piatti che si alternavano e lui li indicava con il dito, balbettando. Gli occhi di Emma continuavano a posarsi senza volerlo su quel vecchio dalle labbra cascanti, come su qualcosa di straordinario e di augusto. Aveva vissuto a corte, aveva dormito nel letto delle regine. Fu servito champagne ghiacciato. Emma si sentì tutta un brivido con quel freddo in bocca e non aveva mai visto melagrane né assaggiato ananas. Persino lo zucchero in polvere lì le parve più bianco e più fine che altrove. Poi le dame salirono nelle loro stanze a prepararsi per il ballo. Thank you. Emma si vestì con il meticoloso scrupolo di un'attrice all'esordio, si aggiustò i capelli secondo le raccomandazioni del parrucchiere e infilò la leggera veste di lana che era stesa sul letto. I pantaloni di Charles erano troppo stretti in vita. «Temo che i sottopiedi mi daranno fastidio nel ballare», disse lui. «Ballare?» disse Emma. «Sì, ma tu hai perduto la testa. Farai ridere tutti. Sta tranquillo al tuo posto. Del resto è quello che si addice di più a un medico». Charles si azzittì. Andava in su e in giù aspettando che Emma avesse finito di vestirsi. La vedeva da dietro, nello specchio, tra due doppieri. I suoi occhi parevano più neri. I suoi capelli leggermente gonfi sugli orecchi risplendevano in un riflesso azzurro. Una rosa infilata nello chignon tremolava sul mobile stelo con finte goccioline di rugiada sui petali. Aveva una veste color zafferano pallido, ravvivata da tre mazzetti di rose a fiocco e da foglie. Charles le volle baciare una spalla. «Lasciami! Mi sciupi il vestito!» Si udì il ritornello di un violino, poi il suono di un corno. Lei scese le scale trattenendosi a malapena dal mettersi a correre. Erano già cominciate le quadriglie. Il cuore palpitò un poco più forte a Emma quando, tenuta per la punta delle dita dal suo cavaliere, si mise in linea in attesa del colpo di archetto per lanciarsi. Ma ben presto quel turbamento sparì. Dondolandosi al ritmo dell'orchestra, lei scivolava lesta in avanti con lievi movimenti del collo. A certe delicatezze del violino, ogni tanto solo nel silenzio degli altri strumenti, le saliva un sorriso alle labbra. Dalla sala vicina arrivava il tintinnio dei luigi d'oro rovesciati sui tavoli da gioco. Poi tutti gli strumenti riprendevano insieme. La tromba lanciava come un lampo sonoro, i piedi ricadevano a tempo, le sottane si gonfiavano e si sfioravano, le mani si univano e si lasciavano, gli stessi occhi prima s'abbassavano davanti a te e poi tornavano a fissarsi nei tuoi. Alcuni uomini, una quindicina, tra i 25 e i 40 anni, sparpagliati tra i ballerini o fermi a discorrere accanto alle porte, si distinguevano tra la folla per una certa aria di famiglia, anche se erano diversi d'età, abiti e fisionomie. Meglio tagliate, le loro marsine parevano fatte d'una stoffa più morbida e i loro capelli, arricciati sulle tempie, parevano lustrati con pomate più fini. Avevano l'incarnato della ricchezza, quel pallore che risalta tra i candidi riflessi delle porcellane, la cangiante lucentezza del raso, la squisita vernice dei bei mobili, il pallore che si conserva sano per mezzo di un regime discreto di vivande raffinate. A tre passi da Emma, un cavaliere in marsina blu parlava dell'Italia con una giovane donna pallida con una gran collana di perle. Magnificavano la grossezza delle colonne di San Pietro, Tivoli, il Vesuvio, Castellammare, le Cascine, le rose di Genova, il Colosseo al chiar di luna. Con l'altro orecchio Emma ascoltava una conversazione piena di parole per lei incomprensibili. Facevano cerchio intorno a un giovane uomo che la settimana prima aveva battuto Miss Arabella e Romolo e aveva guadagnato 2000 luigi saltando un fossato in Inghilterra. Uno si rammaricava che i suoi corridori ingrassassero tanto, un altro degli errori di stampa che avevano sconciato il nome del suo cavallo. Si respirava male. Le lampade impallidivano. Rifluirono nella sala del biliardo. Un domestico salì su una sedia e ruppe due vetri. Al rumore dei frantumi sul pavimento, la signora Bovary si girò e scorse in giardino, premute contro le vetrate, le facce curiose dei contadini. Allora le tornò il ricordo dei Bertaux. Rivide la fattoria, lo stagno melmoso, suo padre in camiciotto sotto i pomari. Rivide se stessa come un tempo, intenta a scremare con il dito le terrine nella latteria. Al fulgore del presente, la sua vita passata, così netta sino ad allora, svaniva, si annullava. Lei poteva dubitare di averla mai vissuta. Era là lei, solo là. Fuori di quella festa non c'era che ombra, un'ombra che ricopriva tutto il resto del mondo.